Ma fanno la pipì sui muri. 30 secondi, se no chiamo l'ambulanza per Parenzo. Neanche il mio cagnolino la fa sui muri. Beh, questo solo cioè, lei ha detto alberi. La cosa di una gravità assoluta. Paragone che il fanno suo la pipì cagnolino sui muri. Che è più educato, il suo cagnolino dei Rom. È una cosa pazzesca. Cioè, è più facile educare un cagnolino dei Rom. Ma è una cosa vergognosa. No, ma per niente. Per come? Niente. Il mio cagnolino è un umano. È più facile educare il cane della Maiolo che una persona. Ma io ma è una cosa, beh, che fa schifo. L'esperienza Tiziana. Diretta. Perché Maiolo fa schifo. Perché Maiolo l'ha educato. Ma non si può dire che è più facile educare un cane di un uomo. Cruciani, ma lo capite o no? I cagnolini, esperienza e i bambini diretta. Se tu li educhi, dopo sono educati. Cioè lei sta dicendo, se nessuno li educa, ma non neanche, sono educati. Ma neanche Le Pen sosterrebbe una cosa simile, che è più facile educare un cane di un uomo. È la Druat. Ma vi rendete conto? La Druat definì. Ma che 30 secondi, torno subito.